Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Ben ritrovati ad Assemblea On Air, il programma che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna. In studio Francesca Mezzadri e Margherita Giacchi. In questa puntata si parlerà dell'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna, dei conti della sanità, della sessione europea e dell'accordo tra l'Assemblea e il Cineca per un uso etico delle nuove tecnologie e il monitoraggio delle leggi. Cominciamo con il dibattito sui danni provocati dall'eccezionale caduta di piogge dei giorni scorsi. In Assemblea Legislativa è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell'alluvione. Preoccupa ancora la situazione in Emilia-Romagna dopo le alluvioni del 2 maggio che hanno portato 15 fiumi a rischio esondazione. Un primo bilancio parla di 1 miliardo di euro per i danni. Sono i dati emersi dalla comunicazione in aula della vicepresidente della Regione e assessora all'ambiente Irene Priolo. Dal Partito Democratico arriva l'appello all'unità per aiutare chi è ancora in grave difficoltà. Sentiamo Manuela Rontini. Noi dobbiamo capire quello che è successo, penso sia doveroso farlo, lo dobbiamo alle famiglie, alle imprese e ai cittadini che hanno rischiato di perdere tutto, però questo non è il momento di puntare il dito contro qualcuno, non è il momento di accusare, di fare polemiche, è il momento di lavorare in squadra per ottenere quello che l'Emilia Romagna merita. Fratelli d'Italia chiede una commissione speciale di studio. Ascoltiamo la capogruppo Marta Evangelisti. Ci aspettiamo dalla Regione Emilia-Romagna in realtà un cambiamento su quelle che sono le politiche che riguardano il dissesto idrogeologico e a questo proposito abbiamo chiesto una commissione speciale di inchiesta per l'emergenza idrica che riguarda appunto questi fenomeni ma anche il fenomeno del dissesto in termini più ampi e anche il fenomeno della siccità. Secondo Silvia Zamboni di Europa Verde siamo in presenza di cambiamenti climatici estremi. Bisogna soprattutto consentire ai fiumi di riappropriarsi del territorio, quindi di poter esondare nelle occasioni di piena e bisognerebbe anche cominciare a studiare insieme sia il fatto dell'esondazione controllata sia il fatto anche della conservazione di acqua. La pioggia caduta in 24 ore è stata quella attesa in almeno 3 mesi, ma per Andrea Liverani della Lega è mancata una corretta manutenzione dei fiumi. Abbiamo presentato una risoluzione dove impegniamo la giunta regionale a prendere un impegno serio verso i cittadini che sono stati colpiti da questa alluvione, ma la questione della non pulizia dei fiumi è un problema che va risolto e l'ho ribadito più di una volta. Passiamo alla sanità. Negli ultimi 3 anni la Regione Emilia-Romagna ha dovuto spendere oltre 1 miliardo per far fronte ai mancati trasferimenti da parte dello Stato. Nella seduta congiunta delle commissioni Bilancio e Politiche per la Salute sono stati presentati i dati della sanità riferiti al 2022. I conti sono in pareggio, hanno assicurato gli assessori Paolo Calvano e Raffaele Donini, nonostante il mancato intervento del governo che avrebbe dovuto coprire i costi Covid e gli aumenti delle bollette energetiche. Nessun commissariamento, anzi, i dati parlano dell'Emilia-Romagna come una delle regioni meno indebitate e più solide a livello nazionale. Ma l'opposizione non è d'accordo e sottolinea le evidenti difficoltà e mancanze regionali. Ribatte alle accuse Marcella Zappaterra del Partito Democratico. Il pareggio arriva grazie al miliardo che la Regione Emilia-Romagna ha messo di risorse che non sono arrivate invece dai trasferimenti nazionali. È uno sforzo che abbiamo fatto ma che non potremmo fare ancora a lungo. Se il governo non aumenta il Fondo Sanitario Nazionale non potremmo continuare a drenare risorse per mantenere i servizi. L'auspicio davvero che anche le forze di opposizione e la destra facciano pressione sul governo perché faccia finalmente quello che tutte le regioni italiane chiedono. Valentina Castaldini di Forza Italia punta il dito sulle risorse straordinarie usate per pareggiare il bilancio e chiede maggiore trasparenza. Io chiedo con una risoluzione che i soldi che sono stati svincolati per ripianare il debito della Regione Emilia-Romagna non siano legati a compiti fondamentali che la Regione ha, in particolare il lavoro e il lavoro per i disabili. E in questi giorni abbiamo visto cose molto gravi all'interno del territorio Milano-Romagnolo come il idrogeologico e non vogliamo che le risorse vengano prese soprattutto da avanzi così importanti che in realtà dovrebbero rimanere per quelle criticità. Emilia Romagna Coraggiosa sottolinea l'urgenza di recuperare le risorse statali per far fronte ai futuri problemi di bilancio. Sentiamo il capogruppo Federico Amico. Il problema non è del tutto risolto, nel senso che c'è un sottofinanziamento del Fondo Sanitario Nazionale. Quello che dovremmo chiedere unitamente a tutti quanti i gruppi è un finanziamento adeguato delle risorse per la sanità da parte dello Stato. Cambiamo argomento. L'Emilia-Romagna punta ad un'Europa più solidale e più green. L'Assemblea legislativa ha approvato una risoluzione con le osservazioni sul programma 2023 della Commissione europea per portare a Bruxelles la voce dei territori emiliano-romagnoli. Il documento è approdato in aula nel corso della speciale seduta per la sessione europea, sintesi di un percorso di analisi nelle diverse sedi assembleari sui temi di maggiore rilevanza per la regione. Sentiamo Lia Montalti del Partito Democratico. Portiamo la voce dei cittadini emiliano-romagnoli e delle imprese a Bruxelles dicendo cosa ne pensiamo su tanti temi che sono strategici per la regione Emilia-Romagna. Quello che riguarda per esempio la moda, il packaging, l'investimento nella filiera dell'idrogeno, il mercato dell'energia, la salute mentale, temi centrali per i cittadini. La risoluzione, votata per parti separate, ha visto la convergenza bipartisan su alcuni punti di tutte le forze politiche, mentre su specifici indirizzi i gruppi di opposizione hanno marcato le distanze con un voto di dissenso. Ecco le osservazioni di Stefano Bargi della Lega. Da parte delle politiche regionali, condivisione nei suggerimenti dell'Unione Europea su alcune tematiche che vanno dalla sanità al trasporto ecologico, piuttosto che sul tema rifiuti, sul quale ci sono delle discrepanze in realtà a livello regionale. Nessun tipo di condivisione invece rispetto alle politiche migratorie che puntano a sostituire la nostra forza lavoro, mentre invece di puntare su cultura del lavoro, formazione e crescita interna, che sarebbero invece gli obiettivi desiderabili. Ospite d'onore il presidente della Conferenza delle Assemblee Legislative Regionali Europee, Rachid Mandrane. La democrazia europea non si fa solamente a Bruxelles, ma va declinata nelle politiche delle nostre regioni, ha detto, ricordando l'importanza di agire a livello territoriale, come da tempo fa l'Emilia-Romagna, attraverso la prassi della sessione europea. E ora parliamo di un accordo siglato dall'Assemblea Legislativa e dal Consorzio Interuniversitario Cineca per l'utilizzo etico delle nuove tecnologie dell'intelligenza artificiale al servizio dei cittadini e della valutazione delle politiche pubbliche. In particolare, l'accordo prevede iniziative rivolte al mondo della scuola affinché i giovani vengano educati a una comprensione critica ed etica. Altro ambito di intervento è quello della pubblica amministrazione, con attività e progetti per la valutazione della qualità delle leggi. Sentiamo in proposito i due firmatari, la Presidente dell'Assemblea, Emma Petitti, e Francesco Ubertini, Presidente del Cineca. Crediamo che ci sia la possibilità, l'opportunità, tenendo insieme anche i processi legislativi che stanno accompagnando l'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna, insieme a quello che è il know-how, le competenze che il Cineca esprime e alla grande professionalità del professor Ubertini, per costruire nei prossimi mesi anche tanti progetti che saranno anche patrimonio delle scuole, dei nostri istituti scolastici con cui già stiamo lavorando. L'altro aspetto riguarda come utilizzare queste tecnologie per valutare o migliorare la qualità dell'azione legislativa. Stiamo entrando in una nuova epoca dove l'azione legislativa in generale, l'azione legislativa su questi temi è al centro del dibattito italiano, ma soprattutto europeo. Ecco, credo che con questo protocollo di oggi comincerà un'azione che metterà a sistema quello che stiamo già facendo per dare una spinta ulteriore a dare un contributo attivo in questa direzione. Nei giorni scorsi il neo ministro della salute della Repubblica Araba Sahrawi Democratica, Salek Bab Hassena, e la rappresentante del Fronte Polisario in Italia, Fatima Mahfoud, sono stati ricevuti in Assemblea Legislativa. L'incontro con la presidente Emma Petitti è stato l'occasione per rafforzare il legame della regione con il popolo in esilio, che vive nei campi profughi da più di 40 anni, in attesa di un referendum per la sua indipendenza. Sentiamo Fatima Mahfoud. Solleva molto il morale il fatto dell'aiuto umanitario che arriva da questa regione, grazie soprattutto al movimento di solidarietà con il popolo saharawi italiano, ma anche la risposta politica sia del presidente Petitti che dell'assessore Barbara Lori, che da tutti i funzionari della regione, perché capiscono la profondità del problema e hanno deciso in autonomia di accompagnare con quello che riescono a fare un processo, diciamo, pacifico verso la soluzione del conflitto nel Sahara occidentale. Con l'intergruppo di amicizia del popolo Sahrawi, l'Assemblea, oltre a svolgere la sua attività legislativa in favore della causa Sahrawi, promuove e partecipa alle attività di sensibilizzazione e aiuto in favore del popolo del deserto portate avanti ormai da una ventina d'anni da ONG e associazioni impegnate nella cooperazione internazionale. Concludiamo con la cultura. I murales di Bologna rivivono nella sede dell'Assemblea Legislativa grazie ai colori dei muri, l'esposizione fotografica di Leonardo Casadei.